Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 800 24 00 24, sono Giuliano Ferrara, questo è Parliamo con l'elefante e come faremo sempre più spesso di lunedì abbiamo un ospite speciale, Francesco Rutelli, che è non soltanto quello che tutti sappiamo, cioè un leader della sinistra e in un certo senso del centro-sinistra, l'ex candidato sfidante di Berlusconi, l'ex presidente della Margherita, uno dei creatori del Partito Democratico, ma è anche l'ex sindaco di Roma, ma è anche il capo del COPASIR, cioè del comitato che sorveglia i servizi segreti. Siamo fortunati ad avere Rutelli ospite perché purtroppo uno dei temi del giorno lo riguarda, come ex sindaco di Roma voglio dire conosce la materia, il tema della sicurezza, il tema delle aggressioni e degli stupri, e il tema del rapporto con chi si comporta male, e molti di coloro che si comportano male appartengono alle minoranze, diciamo, di immigrati che vivono sul nostro territorio nazionale. La comunità percepisce questo come un'offesa, un'aggressione alla sicurezza privata, e ne nascono molti equivoci, molte oscene generalizzazioni, fenomeni di rigetto a sfondo etnico, culturale, insomma, difficili da governare. E questo è il primo tema. L'altro tema di cui dovremo certamente parlare sono gli strascichi del caso Genchi. Voi sapete di che si tratta perché Genchi è stato qui nostro ospite. Genchi è quel privato, diciamo, al quale è stata delegata, è un vicequestore, diciamo, in aspettativa, che ha messo su un'agenzia privata alla quale è stato delegato rintracciare sui tabulati il comportamento telefonico delle persone. Ne ha beccate tante e ha tracciato il comportamento di tante persone. Una di queste era il capo dei servizi segreti. Scusate, viene da ridere perché l'idea che il capo dei servizi segreti venga, diciamo così, tracciato da un privato, solo in Italia può succedere, credo. In genere sono i capi dei servizi segreti che tracciano i privati, qui è il contrario. E allora però anche di questo Rutelli può parlare perché ha denunciato il caso, lo ha denunciato nella sua funzione istituzionale di presidente del COPASIR. E poi c'è tutta la partita della politica, oggi sono le elezioni in Sardegna, finiscono, stasera sapremo i risultati, ne parleremo domani mattina presumibilmente in modo elefantiaco. Invece oggi non possiamo perché non abbiamo i risultati, quindi sarebbe inutile, però oggi c'è tutto lo sfondo politico sul quale si staglia questa sfida tra Soru e Berlusconi, e lo sfondo politico è le primarie di Firenze, dove un giovanissimo 33enne Matteo Renzi ha preso a sorpresa il 40% contro le indicazioni del Partito Democratico alle primarie. Si trattava di decidere chi sarà il candidato sindaco del Partito Democratico e insomma la cosa è notevole. Rutelli poi la sa bene perché Renzi è stato storicamente un suo compagno d'avventura, compagno di cordata politico, insomma ha avuto affinità politico-culturali con lui. La vera sorpresa è che c'è qui mi dicono che devo chiudere, sì, adesso do la linea alla borsa, un minuto solo. La vera sorpresa è che qui c'è Ritanna Armeni. Buongiorno. La meravigliosa Ritanna Armeni, mia storica compagna di avventure televisive. Mancano le telecamere, siamo tutte e due qui in lacrime, alla radio senza telecamere, ci potete ascoltare ma non vedere. Abbiamo fatto un piantarello prima, adesso poi vediamo. Adesso però lavoriamo. Eccoci qua, 800 24 00 24, impugnate la cornetta e telefonateci, c'è Rutelli in linea. Eccolo qua. Presidente Rutelli, buongiorno. Buongiorno a Giuliano, buongiorno a Ritanna Armeni. Allora, la sicurezza. Io faccio una provocazione, poi Ritanna dirà la sua, ma è soprattutto il presidente Rutelli che deve dire la sua, perché è stato sindaco di Roma, perché conosce queste cose, eccetera. Secondo me non c'è soluzione. Il tema degli stupri, non è che su tutto c'è una soluzione. Bisogna educare la gente ad essere gentile, a non essere aggressiva, bisogna metterla in condizioni di vita le migliori possibile, bisogna, come dire, stabilire dei tabù noti, tra l'altro, che le donne non si toccano nemmeno con un fiore, che non, insomma, che non, niente, come dire, che è scandalo e aberrazione l'idea di violentare una donna. E non lo si fa, e se lo si fa si viene colpiti e puniti severamente, punto. Non so che altro aggiungere. Invece vedo si parla di castrazione chimica, di non ci capisco niente, devo dire la verità. Un decreto contro gli stupri, non più i domiciliari. Non so se c'è qualcuno al mondo che immagini che coloro che si trovano nella condizione indegna di fare il gesto che è stato fatto a Roma, se ne sono ripetuti in serie veramente impressionante nelle ultime settimane, si ferma perché il governo annuncia che anziché finire in carcere per un po' e poi uscire non avrebbe gli arresti domiciliari. Adesso io vedo due argomenti, Ferrara, sinceramente due, poi molti possono essere evidenziati. Il primo è l'organizzazione della sicurezza nel territorio. Non mi pare che stiamo migliorando, cioè a dire, qualcuno pensa che la presenza pur molto rassicurante e molto popolare di militari dei corpi di elite, quelli che fanno le missioni all'estero e che stanno con un mitra in braccio ad alcuni angoli di strada o terminali della metropolitana, psicologicamente sicuramente d'aiuto, ma noi pensiamo che sia questo il tipo di presenza che aiuta ad una migliore gestione e controllo del territorio? È evidente che noi abbiamo in Italia moltissime polizie, ne abbiamo aggiunte una di elite temporanea, perché è evidente che non potranno rimanere i soldati e la folgore, quelli che debbono andare a fare, ripeto, azioni specializzate in giro per il mondo dove c'è una minaccia per la sicurezza ben diversa, ad libitum agli angoli delle strade. E poi adesso armiamo i vigili urbani, che è anche qualcosa per la loro sicurezza, naturalmente, per la loro tutela, in certe circostanze utile, ma il punto è che sono disorganizzate le forze di polizia, cioè noi abbiamo tre polizie, carabinieri, PS, guardia di finanza, abbiamo la polizia regionale, abbiamo il corpo forestale, vogliamo continuare, noi abbiamo una quantità di forze dell'ordine straordinariamente, ecco, però Rutelli, mi scusi, finisco, elevato, sì. E di sicuro quello che sta avvenendo gli ha tagliato le risorse, hanno meno soldi, hanno meno mezzi e quindi ci sono molti aspetti di propaganda e poco di soluzione. Ecco. Secondo ed ultimo punto cruciale, questi episodi di violenza sono molto più legati all'assunzione di droghe che in passato. Birra. Il cambiamento è la birra ormai. Sì, no, il cambiamento è il mix di sostanze chimiche, anche Viagra, anche queste sostanze. Beh, io quello lo vieterei per ragioni di decenza pubblica. Comunque tu metti il Viagra, metti la civiltà del Viagra, poi metti insieme sostanze chimiche, droga, alcol, questo è il prodotto che tu hai tra centinaia di, ecco, persone. Però lei non ha l'impressione, Rutelli, mi scusi, lei ha elencato tutte le forze di polizia eccetera, che a un certo punto, io non so se ha ragione Ferrara a dire che la soluzione non c'è, sicuramente la soluzione non può essere quella di quella che si sta prospettando, arresti domiciliari, decreti, ronde, eccetera. E anche perché, guardi, lei sa benissimo, io non lo voglio ripetere perché sembra una cosa, come dire, anche un po' noiosa, ma che poi gli stupri si fanno anche in famiglia, come si sa, cioè al chiuso, e che spesso, diciamo, quei paesi che hanno forze di polizia tali che impediscono gli stupri per strada poi non li possono impedire altrove. Però la domanda che volevo farle è questo: lei non crede che quello che sta avvenendo abbia iniettato anche un altro pericoloso veleno rispetto a già quello, al dramma dello stupro, e cioè al fatto che ci sia ormai un'iniezione di paura, di xenofobia, di odio per il diverso, che può essere altrettanto pericoloso e dannoso per la società in cui viviamo oggi, o per Roma nel caso in cui, di cui stiamo parlando? C'è sicuramente questo, però devo anche dire che la scarcerazione di chi ha compiuto un crimine come lo stupro di Capodanno, potrà anche essere formalmente ineccepibile, però è piuttosto difficile da spiegare, no? Quello è stato un gesto terrificante nella sua dinamica, nelle sue conseguenze, e se un ragazzo responsabile compie un atto di questo tipo e il messaggio che arriva alla nostra società è che non c'è sanzione, non mi pare che andiamo molto lontano, quindi la severità mi pare indispensabile. Ma il problema è scarcerarlo oppure certo, dargli un giusto processo immediatamente per cui venga immediatamente condannato? Incarcerarlo. Cioè al di là del processo, prima e comunque. Comunque tenerlo, adesso noi sappiamo che alcuni di questi casi, quelli di Bologna ad esempio, sono stati registrati con ripetizione, no? Cioè la persona, in questo caso non era un nostro concittadino, era uno straniero, e non dobbiamo su questo tenere particolari differenze di fronte a delitti così orripilanti. Era la terza volta, in questo caso, per la vicenda di Bologna. Ha ragione il sindaco a dire perché in libertà. Cioè noi oscilliamo tra una serie di provvedimenti che appaiono risolutivi, non lo sono, quindi ci vogliono norme di legge che sanzionino il crimine orrendo. Gennaro da Caserta è a favore delle ronde, mi pare. Gennaro? Sì, buongiorno. La ronda a Caserta la fa la camorra, uno pensa. No. Guardi, non è detto, perché a Caserta ci sono anche molte famiglie, molta gente che vuole avere la fonte di riscatto per tutto quello che è apparso negli ultimi periodi. Però io voglio dire una cosa, che secondo me, anche trasmettendo un po' di psicosi, no, a queste persone che agiscono e fanno e commettono questi reati, è buono, perché se ci fossero le ronde, quindi sapendo che in giro ci sono le ronde, qualcuno che deve commettere qualche reato si frena un po', pur magari, ecco, trasmettergli la psicosi per frenarli, ma intimidirli, insomma, certo, perché oggi queste persone che agiscono così commettendo questi reati sono sicuri di sé. Io, da quello che possono, guardi che da quando stanno girando le ronde dei militari giù a Caserta con la polizia, qualcosa ma un è po' cambiato. Meglio. Va bene, grazie Gennaro. Bene, io passerei alla questione di Genchi, perché insomma questa storia del capo dei servizi segreti che viene tracciato sì da un privato, sia pure un privato sui generis, diciamo la verità, noi qui Genchi ce l'abbiamo avuto, era anche simpatico umanamente, personalmente, è un privato sui generis perché è un privato che ha la delega dei giudici ed è un ex vicequestore, però effettivamente la ragione sociale della ditta Genchi è privata, è un consulente privato. Ora, il presidente Rutelli è stato molto severo, ha mandato l'incartamento dopo aver fatto un'inchiesta, come era suo dovere istituzionale, a nome del COPASI, il Comitato di Controllo dei Servizi Segreti, ha mandato l'incartamento sia alla Procura della Repubblica di Roma sia a Gianni Letta, che è l'autorità delegata del governo per i servizi. Succederà qualcosa, Presidente, dopo la sua denuncia? Penso di sì, anche perché noi abbiamo fatto alcune domande che debbono avere una risposta. La prima: perché si raccolgono gli elementi, come diceva Ferrara, sul capo dei servizi? Elementi, che significa? Gli ascoltatori sanno cosa sono le intercettazioni. Tutti più o meno si divertono a leggerne frammenti quando le pubblicano i giornali. Ma qui stiamo parlando di tabulati di traffico, cioè a dire, per 24 mesi, senza una ragione di tipo investigativo, non c'era un motivo legato all'inchiesta, il capo dei servizi segreti italiani, all'epoca Pollari, è stato tracciato. Vuol dire che sono state registrate le sue telefonate per 24 mesi, potete immaginare con chi parla e qual è la delicatezza di questo tipo di comunicazioni, il responsabile dei servizi di sicurezza e dove si trovava, tant'è vero che nelle dichiarazioni che ha reso Genchi al nostro comitato, quando per 7 ore ha reso le sue comunicazioni, ha dichiarato che sono stati seguiti e tracciati attraverso le celle, così si fa, i suoi spostamenti, gli spostamenti del capo dei servizi segreti. Nessuna risposta credibile. Secondo, perché deve farlo un privato? Oltretutto costa molto di più. Terzo, perché non si distruggono i dati? Qui non stiamo parlando solo della casta, no? Tra virgolette, cioè dei parlamentari che non debbono essere ascoltati in base alla legge, dei capi dei servizi e di molti funzionari dei servizi, che buon senso direbbe, se compiono qualche crimine o sono sospettati, ebbene vengano come tutti messi sotto controllo, ma poiché non c'è nessun motivo che è emerso da queste indagini per cui dovessero esserlo, non si capisce perché lo siano stati. Ad esempio, queste indagini hanno portato gli investigatori ad acquisire, sempre attraverso il consulente privato, il perito, i tabulati di traffico dei protagonisti della vicenda Telecom, Tavaroli, Ghioni, Mancini. Molto singolare, era un caso di fondi europei, fondi comunitari, una truffa a fondi comunitari, questa era la partenza dell'inchiesta in Calabria, poi si è allargata, ben vengano tutti gli accertamenti, ipotetiche, eventuali complicità, ma la domanda è perché alla fine tutti questi dati tanto sensibili non vengono distrutti? Alla nostra domanda noi abbiamo acquisito che il consulente ce li ha ancora tutti lui, si tratta di centinaia di migliaia di persone, non solo virgolette personalità di quel rilievo, tra le personalità concludo il capo dell'antimafia. Perché si dovrebbero disporre i tabulati delle telefonate di due telefoni del capo dell'antimafia? Ma scusi, lei che idea si è fatto? Perché voi l'avete intervistato, diciamo, interrogato a lungo questo Genchi, secondo lei perché si è messo in testa di spiare Pollari? Io ipotesi non ne ho, però la domanda viene, come si dice, spontanea, perché non è che uno un giorno si mette lì e dice adesso faccio... Allora ha chiesto un giudice o no? Un magistrato? Viene tutto questo, Rutelli? Qual domande, è l'origine? Le risposte che gli abbiamo fatto, e voglio ricordare, questo è un caso raro, abbiamo approvato la relazione molto delicata perché riguarda aspetti, come cogliete, molto impegnativi per tutti i corpi dello Stato. Questa volta è stata approvata all'unanimità, centrosinistra, centrodestra, tutti i partiti hanno sottoscritto, tutti i rappresentanti, questa è una prova, credo, di serietà. Ma è veramente da mettere l'attenzione sulla formazione di questi dati, di queste informazioni acquisite nel tempo. In una delle risposte il consulente ha detto: ma io sono andato a rivedermi le carte e ad esempio ho visto che sì, c'era una telefonata che riguardava, e cita una personalità istituzionale, nel 2001. Cioè, ecco, io non vorrei che all'origine di questo straordinario successo, per cui voi sapete che questo tipo di attività di tracciamento per le indagini è molto preziosa nei casi di crimini, omicidi, mafia, eccetera, perché permette di concentrare sulle comunicazioni telefoniche molte informazioni in breve tempo, localizzarle nello spazio. Non è ben chiaro che cosa, come ho già detto, questo avesse a che fare con la partita che ho richiamato prima, però forse ha a che fare con la formazione di un sistema di dati che poi torna molto utile. La fortuna di questo consulente che oggi Sarebbero stati utili perché, secondo lei? Perché a questo punto, se lui lavora come lavora con 50 circa, in 50 procedimenti in questo momento, e in questo momento ancora aperto da magistrati quello che si chiama un account che gli consente di accedere alle utenze telefoniche di qualunque nostro concittadino, basta che un magistrato gli firmi, e purtroppo abbiamo visto è avvenuto con una certa larghezza un'autorizzazione. Oggi lo può fare in tutte le direzioni, è chiaro che si costituiscono, poiché non sono state distrutte, questo lo abbiamo acquisito, delle banche dati che possono tornare molto utili. Bene, e qui mi fermo perché poi lo accerterà. Dobbiamo dare la pubblicità, la magistratura. E poi cambiamo capitolo. Grazie, onorevole Rutelli. Ehi, qui è pieno di telefonate per e anche contro Francesco Rutelli, presidente del COPASIR, leader del Partito Democratico, leader, diciamo, centrista, di tutti i tipi, anche sull'etica, sul testamento biologico, ma naturalmente l'argomento che abbiamo trattato all'inizio, quello degli stupri, della sicurezza pubblica, soprattutto nelle grandi città, la politica, la Margherita, il PD, insomma, le domande sono tante. Adesso daremo corso a alcune domande, ma è Ritanna che voleva aprire il capitolo della politica con Ritanna Armeni. Il punto dolente, cioè il Partito Democratico, perché Rutelli, adesso Ferrara all'inizio di questa trasmissione ha ricordato che ci sono state le elezioni a Firenze, sono in corso le elezioni in Sardegna, però insomma quello che emerge comunque dappertutto è questo disagio, questo partito nel quale si possono incontrare posizioni etiche sulle questioni sociali, sulla collocazione europea assolutamente diverse, tanto che qualcuno lo definisce ormai un luogo più che un partito. La domanda è: un luogo anche dell'opposizione diciamo che non punta sull'identità e può avere davvero come aspirazione quella di sconfiggere un centrodestra, una maggioranza che appare, devo dire, forte, combattiva, sotto un capo molto deciso, che sta portando avanti una politica finora, diciamo così, senza davvero alcuna difficoltà o pochissime difficoltà? Beh, il centrodestra l'identità l'ha costruita in 16 anni, attraverso vittorie, attraverso sconfitte. Il Partito Democratico deve farlo, non avendo la fretta di farlo in pochi mesi, ma deve farlo. E lo può fare, secondo me, sulla politica, sull'agenda dell'economia in particolare. Oggi la grande... Beh, certo, se dobbiamo aspettare 16 anni, se si deve aspettare 16 niente, anni, la cosa è dura, con i suoi elettori, Rutelli. No, Berlusconi qualche volta ha perso. Parlo dell'identità, cioè parlo della identità di un partito nuovo, naturalmente, non della somma dei partiti vecchi, seppure hanno fatto cose buone. Però Berlusconi ha vinto con la politica, ha perso per la politica, è in pista e oggi ha sicuramente configurato un profilo più netto della sua parte, tant'è che ne fa un partito unitario. Il PD deve avere più velocità, naturalmente, ma lo stesso coraggio, la stessa determinazione, cioè deve far capire agli italiani cosa vuole fare. Secondo me l'occasione è l'economia, la grande crisi dell'economia, derivante dalla crisi della finanza, derivante da quello che abbiamo visto in questi mesi e che va a sbocciare, che va a sfociare in una vera, vera, profonda difficoltà nel nostro paese. Presidente Rutelli, lei la che butta, riguarda il lavoro. Lei la butta, la sfida sull'economia. Aspetti un attimo, lei la butta sull'economia, però io sono tenuto a fare l'elefante nel negozio di porcellane. Cioè, il Corriere della Sera di domenica aveva un articolo, recava un articolo che aveva di Francesco Verderami, piuttosto così informato, ma poi corrispondente a umori che circolano ormai direi quotidianamente, insomma, che era questo. Adesso io lo riassumo senza infierire, senza diciamo. Allora, il senso è questo: qui adesso la battaglia diventa, come al solito, D'Alema contro Veltroni, con Bersani in campo, che pretende di succedere a Veltroni alla guida del Partito Democratico. Veltroni ha rivelato una certa debolezza di presa sul partito, sebbene sia ancora l'unico legittimato alla grande dalle elezioni primarie. Quindi è una situazione molto DS contro DS versus DS. Ci sono sfilacciamenti nell'area del centro cattolico, perché lei, Presidente Rutelli, fa un po' corsa solitaria. L'ex Presidente del Senato Marini, anche lui. Fioroni, Beppe Fioroni, al quale tra l'altro facciamo gli auguri perché ha avuto un piccolo malore un paio di giorni fa. L'ex ministro della pubblica istruzione, uomo molto forte nel governo delle truppe interne, è formalmente con Veltroni, anche se poi sulle questioni etiche si dissocia, su tante altre questioni programmatiche ha posizioni diverse. Comunque c'è un settore del PD, quello di centro cattolico, volgarizzo, sono poi Follini, eccetera, eccetera, che in ordine sparso recalcitra a questa situazione in cui poi alla fine quelli che contano, che comandano e che vogliono comandare in futuro sono sempre dei diessini. Buttiamola in politica. Qual è la sua analisi? Perché questa è l'analisi retroscenistica del maggiore giornale italiano. In politica la metterei così: non abbiamo sciolto i Democratici di Sinistra e la Margherita, quest'ultimo un partito che è sempre stato a due cifre, cioè sopra il 10%, sempre, in pochi anni, pur essendo un partito che univa tradizioni diverse. Non li abbiamo sciolti per fare un partito nuovo, se non proprio per fare un partito nuovo. E un partito nuovo, avete citato il caso di Firenze, a Firenze le primarie le ha vinte Matteo Renzi, non le ha vinte, e i suoi collaboratori, i suoi amici. Col 40%, una vittoria notevole. Clamorosa, una vittoria clamorosa, ed è la vittoria del coraggio. Cioè la vittoria di chi dice non mi sistemo, fa un po' come Ferrara, non faccio semmai anche un po' l'elefante nella cristalleria, ovvero dico un po' di cose spiacevoli e però, come si è visto, raccolgo molti consensi senza dovere soltanto ripetere le verità comode. Allora noi con le verità comode non andiamo da nessuna parte, perché il centrodestra ha oggi, come dicevate, una presa su una parte importante della società italiana, soprattutto nel nord del paese, nei ceti produttivi, e il Partito Democratico nasce per una innovazione profonda, non per collocarsi, diciamo, secondo la tradizionale visione della sinistra italiana, in un contesto in cui tra l'altro le sinistre nella loro tradizione anche più nobile, quella socialdemocratica, sono in crisi. Noi portiamo con noi la forza delle tradizioni democratiche riformiste della sinistra italiana certamente, ma per fare una cosa nuova. Questo deve fare Veltroni, per questo abbiamo votato Veltroni, a Veltroni abbiamo dato questo mandato e lo deve fare secondo me anche sui temi etici, certamente sui temi. Ecco, ma perché non si candida lei alla guida del Partito Democratico? Perché così non assisterete. Ero capo di un partito, un anno fa ho fatto quello che si dice un passo indietro, l'ho fatto convintamente per fare un partito più grande, ho dato un mandato a Veltroni per fare un partito più grande, nuovo, e questa. Scusi Rutelli, io non voglio fare la parte di Ferrara dell'elefante, diciamo la parte dell'elefantina in questo caso, ma sì. lei che ci sta parlando da 2 minuti 3 di innovazione, di partito nuovo, allora, sì. Questo partito c'è da un anno e mezzo, quindi adesso diciamo così, il nuovo non si può costruire in un anno e mezzo, però qualche piccola novità, insomma, in un anno e mezzo avremmo dovuta vederla. Devo dire che non si ha esattamente questa impressione, o sbaglio, oppure lei mi può enumerare. Prima della risposta di Rutelli, sentiamo Andrea da Ferrara. Andrea? Sì, buongiorno. Lei dice di venire dalla sinistra DC. Intanto, sì, mamma mia, io ci ho fatto 20 anni nella sinistra. Come mamma mia, è una cosa gloriosa. Io ci ho fatto 20 anni nella sinistra DC per non morire socialista, è quello che volevo dire a Rutelli. Sono stato un dirigente della Margherita, localmente. Io non ho fatto questa scelta e non sono entrato nel PD perché non ho fatto 20 anni di militante in un partito che ha avuto More e Zaccagnini per finire nel Partito Socialista Europeo e per dovermi vergognare perché prendo messa la domenica. Qui c'è una battuta, c'è una battuta molto bella di Follini, dice che avrebbe incontrato Massimo D'Alema e gli avrebbe detto: Massimo, Marco Follini, ex berlusconiano, insomma casiniano, UDC, che poi è passato al Partito Democratico, adesso sta facendo lì un percorso suo, insomma. Allora Follini ha detto: caro D'Alema, non è che possiamo stare in Europa col Partito Socialista Europeo, in Italia con la CGIL e in Israele con Hamas e in Palestina con Hamas. Non gli è andata per bene. Per dire le vostre posizioni, anche quelle più estreme, CGIL, lotta di classe, Hamas, Partito Socialista Europeo, non assomigliano al progetto di un Partito Democratico nuovo. Prego Rutelli. Il Partito Democratico deve avere coraggio, perché se pensa soltanto di portare con sé quello che aveva prima, non si rende conto di quanto la società italiana sia cambiata. La società italiana è cambiata in profondità e non porta più sufficiente consenso, ma soprattutto le risposte a un paese che ha tanti problemi, che si sta frammentando, che ha un'amministrazione che non funziona, che ha servizi che stanno peggiorando, che ha infrastrutture che non si realizzano, che ha minore competitività, che ha una esclusione sociale crescente e non invece una maggiore tenuta dal punto di vista sociale. Di fronte a questi problemi non ci vogliono più soltanto le risposte che abbiamo tutti dato negli anni passati. Per questo è nato il PD, non come un porto di approdo sicuro per i vascelli precedenti, ma effettivamente, come dicevano alcuni, li abbiamo bruciati i vascelli per dare vita a un partito che sia coraggioso. È stato citato nei giorni scorsi un caso singolare, quello di Kadima, no? in Israele. Per carità, Israele è un piccolo paese, una democrazia complicata, però quando hanno visto l'estrema difficoltà in cui si trovavano due grandi leader e che avevano litigato sempre, Sharon e Simon Peres, hanno fatto un partito democratico. Sì. No, sì, che tuttora e tutti pensavano si sarebbe sciolto. No, dà una risposta ai bisogni fondamentali del paese, pur in elezioni difficili si è confermato il primo partito. Io vedo il Partito Democratico, non perché sia un partito debba essere di centro, però lo vedo capace di occupare il centro della scena politica, senza tradire i grandi valori sociali, i grandi valori democratici, riformatori, anzi, ma attualizzandoli. Ecco perché parlavamo prima della sicurezza. Non dobbiamo avere paura di affrontare i temi della sicurezza. Non dobbiamo soltanto dire che fa male il governo nelle cose di cui si occupa. E vede, nelle settimane Se le cose dovessero andare. No, le faccio un esempio. Ma io le devo fare. Se le cose dovessero andare male dal suo punto di vista, cioè poi alla fine Bersani, che è una persona naturalmente di grande valore, che ha anche lui un senso riformista, centrista, moderato della politica, però è l'Emilia Rossa, insomma, è D'Alema, è una certa concezione della politica di sinistra in Italia, niente di male, è legittima, vorrei vedere che scomparisse la sinistra, però Bersani contro Veltroni, con D'Alema dietro, eccetera, che soffia, e poi alla fine in Europa, bene o male, sarà Partito Socialista Europeo, e poi... E vabbè, ma insomma, no, se voi vi sentite a disagio, restate o ve ne andate? Questa è la domanda del cretino giornalistico. Piacerebbe molto ad alcuni, no? Piacerebbe molto. Ma è un tema che non esiste questo. Non esiste la scissione. Ma non esiste, non esiste la scissione, nel senso che noi abbiamo fondato il Partito Democratico per contribuire a dargli un profilo. È chiaro che io non sono contento, perché vede... La scissione non esiste, ma come dire, le alleanze, perché poi le voci che sono venute fuori sul fatto che lei e altri autorevoli dirigenti si starebbero dirigendo verso il centro, che lei qui ci smentisce, però evidentemente avevano una sostanza, cioè quella che il Partito Democratico da solo non ce la fa, e allora nasce il problema delle alleanze. Lei come dire, punta un'alleanza con l'UDC di Casini? Noi dobbiamo fare del Partito Democratico la forza riformatrice moderna di questo paese e scegliere gli alleati che condividano il nostro programma per migliorare l'Italia. L'esempio che volevo fare riguarda una certa oscillazione. Vede, noi abbiamo raccolto con la crisi economica incombente, io ho criticato per questo il partito. Guardi, per me c'è Veltroni, punto. L'ho appoggiato, lo appoggio, e fino in fondo il segretario del PD è può e deve farcela a portarlo nella direzione giusta. Però l'ho criticato quando noi con la crisi economica che stava arrivando abbiamo raccolto per dei mesi delle firme su una petizione di nessun contenuto, di nessun significato. Poi nelle settimane scorse abbiamo annunciato un referendum, forse non ve lo ricordate, sulla Gelmini. Sì, come no. Certo. Poi abbiamo adesso... No, adesso c'è questa proposta del professor Marino, vuole fare un referendum su una legge che non c'è. Su una legge che non c'è ancora. Cioè, ma voglio dire, l'Italia oggi noi. Però abbiamo... Marino non ce l'avete portato voi nel Partito Democratico. Chi ce l'ha portato Marino? Che cosa? Dall'America, questo chirurgo che è venuto nel Partito Democratico a fare il senatore. Chi ce l'ha portato? Voi o Iliesi? Ci sono bravissimi politici che hanno sensibilità, culture diverse. Ma ce l'avete portato voi? E questo avviene in America per l'appunto, caro. No, ma come è venuto Marino? Dico, chi ce l'ha portato? È un bravo professionista ed è utile che porti la sua posizione e la confrontiamo. Ma io volevo una notizia, chi l'ha portato? La Margherita o i Iliesi? D'Alema forse. D'Alema ha portato Marino. E quindi, ho capito, e quindi vedi, così c'è tignoso. Anche Marino tra le... Gianandrea da Palermo versus Francesco Rutelli sulle questioni etiche, sulle quali Rutelli da sempre ha una posizione eretica, nel senso che rispetto al conformismo secolarista, per cui un politico di centrosinistra deve sempre essere è per i testamenti biologici, è per l'eutanasia, è per il massacro degli embrioni, beh, Rutelli obietta. Allora gli dicono che sta lì sotto la gonna di Ruini, ma invece l'eretico è lui veramente. Non è idea di eresia che c'ha ancora Giuliano, cioè questa idea di eresia, cioè Rutelli si allinea alla Chiesa. La religione secolarista è quella nella quale credono tutti i mariniani, vabbè, nel senso di Marino, non Marino. Marini. Gianandrea. Allora, buongiorno. Io vorrei dire alla cara Ritanna di uscire dalla cristalleria perché sta entrando un topolino e con due elefanti non si sa cosa può succedere. E allora, il senatore Rutelli nel corso di questa trasmissione ha definito il Partito Democratico di centro, riformista, riformatrice, partito che... Sì, di centro è moderno, ma ha evitato accuratamente di definirlo liberale. Io lo capisco perfettamente, perché mal si concilierebbe, anzi non si concilierebbe per niente, il suo voto a favore della mozione Gasparri e la sua nota posizione in favore di un disegno di legge che finirà per rendere il testamento biologico in Italia una barzelletta in tutto il mondo, cioè il contrario di quello che dovrebbe essere. E quindi capisco che lui non usi la parola liberale, perché chiaramente imporre per legge... Gianandrea, posso obiettarle solo una vignetta di Vincino, che è il mio vignettista preferito, anche certo, perché le disegna sul mio giornale, oltre che su quella sera. Che mi faccia concludere dopo. Sì, certo, Vincino dice, ma tutti sono liberali, tutti... Però poi quando c'era il Partito Liberale il 3% facevano festa. Sì, guardi, io vengo dal Partito Stia Liberale, non lo dica a partito... me perché io a 18 anni ero nel Partito Liberale e so perfettamente qual era la barzelletta in voga. Appunto. Vabbè, comunque vada avanti. Lei obietta a Rutelli sul testamento biologico. Guardi, sulla io obietto perché pensare di imporre, come stavo dicendo, per legge un comportamento... Idratazione e alimentazione. No, è da stato etico, siamo alla sharia. Ha detto la formula che... Me lo deve consentire, siamo... all'Afghanistan dei talebani, ma come si fa a non comprendere? Certamente non siamo Vatican Taleban, le so le formule, ma le allora so. se Rutelli non andrà fuori, non lascerà il Partito Democratico, cosa che io francamente a questo punto auspico, saranno gli elettori a lasciare il Partito Democratico. Va bene. È un elefantino anche lui, ammazza, accidenti. Topino di cristalleria. Gian Andrea, complimenti per la chiarezza, Rutelli risponde. Ma sì, io ho una... dialogo che ho iniziato da una settimana su Facebook, alla definizione orientamento politico, siccome lì bisogna metterci una parola, c'è scritto liberale, e vorrei spiegare, e poi sotto religione Roman Catholic, poi ci sono gli interessi, l'arte contemporanea, eccetera, è molto breve, in 7 righe, ho scelto quella parola perché ci credo, perché reputo che la visione liberale e la visione democratica sia quella esattamente che esclude lo Stato etico ed esclude la bioetica di Stato. Allora, c'è un punto su cui siamo in dissenso probabilmente, che è l'eutanasia. Io sono contro l'eutanasia. Se essere liberali significa essere favorevole all'eutanasia, legittimo, ma non lo credo e comunque non sono d'accordo. La nostra posizione in questi anni, tutto sommato, convergente largamente, dice no all'eutanasia, no all'accanimento terapeutico di fronte agli immensi cambiamenti scientifici, tecnologici. È evidente che il caso di Eluana è stato un caso estremo, come ce ne sono centinaia ovviamente, uno diverso dall'altro, ma a mio avviso il punto critico è questo. Il medico è solo un esecutore della volontà degli altri? O il medico, anche di fronte a una volontà, magari rilasciata 2 o 3 anni prima, in quel caso non lo era rilasciata, era interpretata, ma è stata una battaglia che io rispetto, fatta dalla famiglia Englaro, per portare in piazza e non nel chiuso del loro dolore, della loro sofferenza, la vicenda di questa ragazza che si protraeva da tanti anni così terribilmente. Lo rispetto, sinceramente lo rispetto. Però è evidente che se un medico, al quale a mio avviso va l'ultima parola, non so se è popolare quello che dico, è quello che penso, parliamone, io penso che l'ultima parola non vada né alla famiglia, né ai sacerdoti, né allo Stato, ma vada al medico che debba dire se, come avviene ogni giorno migliaia di volte ai nostri ospedali, c'è accanimento terapeutico oppure se c'è una speranza. Quindi se lo scopo di una legge è di dire io ho il diritto di staccarmi la spina, lo Stato ha il dovere di staccarla, la mia risposta è diversa ed è tocca al medico valutare se c'è una speranza e secondo il giuramento di Ippocrate che ha fatto metterla in pratica. Ecco, ma nella legge che lei, mi pare, nella legge che è presentata dal Popolo della Libertà e che lei ha detto che per, come dire, per una questione di coscienza avrebbe votato, c'è quello che lei dice, cioè c'è il fatto che il medico deve decidere. A me pare che ci siano delle regole ben più precise che rendono, diciamo, abbastanza verosimile quello che diceva il nostro ascoltatore, cioè che ci troviamo di fronte ad una legge, sì, questa sì, sovietica, di quelle che in cui lo Stato interviene. Sì. Ci sono due chiacchiere che io considero veramente vergognose in queste settimane. La prima, che ci siano un certo numero di persone, niente di male che ci siano delle persone che operano, che agiscono dopo avere ascoltato anche l'opinione di un filosofo o di un religioso. Ma la cosa veramente pessima di questa polemica e di una certa denigrazione che si sta facendo è che da una parte qui c'è qualcuno che agisce perché obbedirebbe, come diceva prima Ferrara, alle gonnelle di un vescovo, di un sacerdote e di un cardinale. Dall'altra che c'è qualcuno che vuole imporre che uno che sta morendo, sta soffrendo terribilmente, gli venga imposto in più la tortura di un sondino, magari due, magari tre. Ecco, di fronte, e questa cosa sta passando come una verità, è una più, la più grande delle menzogne. Bisogna che discutiamo seriamente di questo. La invece la verità qual è? Mi scusi, se uno ha un sondino da 16 anni... Ma quanto è prepotente anni... questo Armeni? No, io vorrei sapere... Ma mi mangia la pappa in testa, ma qual è la verità? Il microfono, no, ma qual è vergogna? La verità? La verità è che se lei o io siamo lì da 16 anni, io non me lo auguro e non glielo auguro, con un sondino che ci alimenta e ci idrata, secondo questa legge questo sondino non ci vuole essere tolto. La facciamo un po' semplice. No, perché no, la vita è un bene primario. Non è vero. Non è vero, mi fa piacere. Non è vero, il medico dichiara che quello è un trattamento inumano, che è un trattamento che porta un inutile sofferenza, il medico lo stacca. E quindi nel caso allora di no, scusate, siccome adesso siamo, il tempo è finito, vorrei piazzare una piccola domandina ed è veramente finito. Se Beppino Englaro, come dicono alcune dichiarazioni da lui rilasciate tra virgolette, non smentite, nei giornali degli ultimi giorni, entra, come si dice, in politica, non dico per fare il deputato, ma insomma si mette a fare una bella campagna sulle sue idee, posso dire che tutta la storia di Eluana è stata una campagna subdola per l'eutanasia? Secondo me il fatto che Peppino... posso dirlo o no? No, secondo me non puoi dirlo comunque, perché se no, tutti perché quelli siamo che stati accusati di usare il corpo di Eluana per le nostre idee. Il padre comunque, guarda Giuliano, il fatto che non abbia dato una foto di Eluana, di Eluana rispetto in quelle condizioni, beh, significa lo credo. A me francamente mi ha tolto ogni dubbio, ma comunque mi scuso, non dovevo intervenire. Onorevole Rutelli, lei auspica un ingresso in campo di Beppino Englaro? No, guardi, Englaro ha fatto certamente una battaglia politica nel senso più degno del termine. Lo rispetto ed è libero di fare quello che crede. Io penso che però dalla discussione di oggi forse potremmo, io vi ringrazio dell'ospitalità, spingere, io ho citato il caso di Matteo Renzi a Firenze. Matteo Renzi, solo per il suo merito, non certo per quello di altri, ha vinto perché ha portato delle idee che sono state reputate da alcuni della sinistra tradizionale troppo moderate. In verità lui ha detto delle cose coraggiose, delle cose nuove per la sua città, è stato premiato oltre ogni aspettativa, se lo merita, e però penso sia anche un indirizzo che deve far riflettere il Partito Democratico, cioè a dire, con idee coraggiose e mettendoci la faccia in prima persona, qualche volta si pigliano anche dei ferri da stiro sul volto, però no, io sono uova, qualche però è l'unico modo per andare avanti. Se il centrosinistra vuole tornare in maggioranza del paese, se si vuole rimpannucciare nei caldi approdi di quello che è stato, o meglio di quelle che sono le tradizioni prevalenti che sono state, non ci si rende conto che la conquista della maggioranza degli italiani relativa da parte di Berlusconi è stata un prodotto di volontà politica. Il Partito Democratico deve essere quello, deve riuscire a esprimere meno, certo, convenzionale. Va bene, grazie Presidente Rutelli, grazie a Ritanna Armeni. Grazie a voi. Molto prepotente, molto cattiva come sempre, anche senza le telecamere. Io pensavo fossero le telecamere, invece no, basta un microfono per scatenare la sua aggressività. Sono che stato cattivo violentato. Che sei stato. Arrivederci, naturalmente i ringraziamenti di Prammatica e anche di cuore che vanno a Gloria Guerrera, Franca Fossati in redazione, a Alessandro Chiappini e a Giorgio Matè in regia. La linea al GR e poi a Gianluca Nicoletti con Mailog 2.0. A domani.